Rossa 24, i gialli della storia. Stava bene, proprio bene. Tant'è vero che poi è salito in macchina, siamo andati al comizio, scherzava, rideva e cominciato dal comizio e in qua a piazza faceva un po' freddino. Quasi finito il comizio, a un certo punto scende un compagno su del palco e ci avvisa che Berlinguer si sentiva male. Ci guardate che si sente male, c'è qualche cosa che... A Mix 24 oggi vi raccontiamo la storia del segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Quello che avete sentito è il racconto delle sue ultime ore di vita nelle parole di Alberto Menichelli, autista e amico fedele. Oggi vogliamo ripercorrere le tappe fondamentali del percorso umano e politico di Berlinguer, a cominciare dal discorso che pronunciò a Mosca nel 77, nel 60° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre. Il discorso dello strappo, raccontato per noi da Antonio Rubbi, allora responsabile della sezione esteri del PC. Per festeggiare il glorioso anniversario sono giunti a Mosca numerosi ospiti da tutte le 15 repubbliche della nostra sterminata patria. La parola al segretario del Partito Comunista Italiano, il compagno Enrico Berlinguer. L'esperienza compiuta ci ha portato alla conclusione che la democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l'avversario di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore storicamente universale sul quale fondare un'originale società socialista. Quindi qui il discorso che fa sul valore universale della democrazia, su quali devono essere i caratteri, i tratti di una società socialista in qualunque parte venga realizzata, lo fa rivolto a loro. E quindi è una critica al loro sistema. Un discorso scomodo e coraggioso che si ripercuote immediatamente sulla politica italiana. Tra il 77 e il 78 Berlinguer infatti è deciso a portare il suo partito al governo e le trattative con il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro si intensificano. Nei primi mesi del 78 Berlinguer e Moro si incontrano due volte in segreto. Sentiamo il retroscena di quegli incontri con le testimonianze inedite degli uomini che li hanno organizzati. Luciano Barca, membro della direzione del PC, e Tullio Ancora, consigliere della Camera dei Deputati e amico di Aldo Moro. Scegliamo dei valori che ci uniscono, camminiamo insieme. C'era il no americano, parliamoci chiaro. Gli Stati Uniti non vedono di buon occhio che i partiti comunisti partecipino al governo in paesi dell'Europa occidentale e con riferimento specifico alla situazione italiana, che preferirebbero vedere moltiplicati gli sforzi dei partiti democratici per un governo efficiente e aperto alle istanze sociali. 16 febbraio. Il no di Washington non ferma il dialogo tra Moro e Berlinguer. I due leader si incontrano di nuovo. Venuta meno l'ipotesi di un ingresso del PC nella maggioranza, Berlinguer insiste affinché sia Moro a guidare il governo. Moro disse: è meglio Andreotti. Crea meno problemi, intendeva dell'America. Moro si impegnò a svolgere un'azione presso le varie correnti della DC per preparare il terreno a questo incontro più profondo fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. 15 marzo. Il dialogo fra Moro e Berlinguer è ormai appeso a un filo. Alle 11 di sera mi arrivò una telefonata del dottor Ancora che aveva un messaggio per me di Moro. In questo messaggio Moro diceva che comprendeva la nostra riluttanza. Moro disse: accettatela, se no non si fa niente. Non posso fare altrimenti. Ma il giorno dopo non è un giorno qualsiasi. È il 16 marzo del 1978. Le Brigate Rosse sequestrano Aldo Moro e uccidono gli uomini della sua scorta. Il filo sottile di un dialogo che avrebbe potuto cambiare la storia d'Italia viene reciso e reciso per sempre. Cioè rappresenta per Berlinguer la fine di un progetto politico portato avanti con coraggio. Un coraggio che il segretario del PC mostra per tutta la vita nel suo ruolo pubblico, ma anche in privato, come ci raccontano la figlia Maria e lo stesso Berlinguer in un'unica intervista rilasciata a Mixer nel 1983. La mia famiglia era una famiglia borghese, di avvocati, molto antifascisti, Mazziniani prima. Io non ho fatto la scelta della politica, io ho fatto la scelta della lotta per la realizzazione degli ideali comunisti. Nel 1944 Mario Berlinguer, membro del Comitato di Liberazione Nazionale, è di stanza a Salerno, dove ha sede il governo di unità nazionale. Ma Enrico Berlinguer è un comunista convinto e il padre decide allora di presentarlo al suo vecchio compagno di liceo, Palmiro Togliatti. La qualità a cui è più affezionato? Quella di essere rimasto fedele agli ideali della mia gioventù. Mia nonna Bianca all'inizio non credo che proprio fosse entusiasta l'idea che mamma si sposasse con un comunista, pure spiantato, quindi insomma. Quindi io penso che il rapporto tra mio padre e mia madre sia stato tra alti e bassi una grandissima storia d'amore. Il 26 settembre 1957 Enrico Berlinguer sposa Letizia Laurenti. Due anni dopo nasce Bianca, cui seguiranno Maria, Marco e Laura. Ecco, ma la famiglia quanto conta nella sua vita allora? Conta molto. Lei ha quattro figli. A quanto del suo essere padre e anche marito ha rinunciato per fare politica? A una parte certamente, e me ne rammarico continuamente. Io non penso che mio padre sia stato assente, penso che sia stato un padre poco presente fisicamente, ma non assente, questo io non l'ho mai sentito. Cioè ogni volta che uno di noi ha avuto bisogno di lui c'era, quindi non... Ma lei si sente tollerante in casa oppure autoritario? Cioè ha un rapporto di che tipo? Cerco di essere comprensivo. Ma qual è il suo peggior difetto? Forse una certa spigolosità del carattere. Mio padre era un timido, quindi non era certo uno che si vedeva che fosse un allegrone, però era una persona che amava molto la vita, insomma, molto dentro casa allegro, insomma, diciamo. E la cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei? Che sarei triste, perché non è vero. Siamo ormai nel 1968, un anno di svolta per l'Italia, per il Partito Comunista Italiano e per Berlinguer, che deve affrontare la repressione della Primavera di Praga, la radiazione del gruppo del Manifesto e la contestazione studentesca. Dal 1968 in Italia si è aperta una nuova stagione politica, segnata da una dura lotta nelle piazze e nei palazzi. Berlinguer ne è sempre di più il protagonista, è lui ad essere il candidato naturale alla segreteria del partito, come ricorda Alfredo Reichlin, membro storico della direzione comunista. C'erano due candidature, c'era la candidatura di Berlinguer, ma c'era anche la candidatura di Napolitano. Il pronunciamento per Berlinguer fu larghissimo. E a quel punto cominciò la sua sofferenza, perché poi lui non era un uomo adatto a questo mestiere, era un uomo timido, una persona psicologicamente e fisicamente fatta per fare il bibliotecario, è andato a scegliere il mestiere più folle rispetto, e però l'ha assunto, qui c'è un elemento stranissimo, lui l'ha assunto come una missione, quasi una cosa religiosa. Una missione quasi religiosa, è questo lo spirito con cui Enrico Berlinguer si accinge a svolgere il suo ruolo di segretario del Partito Comunista. Ma l'Italia dei primi anni 70 è un paese in forte difficoltà. I governi democristiani sono incapaci di fronteggiare la crisi economica e la strategia della tensione con le sue bombe mette a rischio la tenuta della democrazia. Berlinguer allora elabora una nuova strategia per il PC e per il paese. A ricordarlo sono i suoi compagni di partito, Alfredo Reichlin, Luciano Barca, Aldo Tortorella. 28 settembre 1973. Due settimane dopo il golpe militare che in Cile ha rovesciato il governo del socialista Allende, Berlinguer pubblica il primo di tre lunghi articoli sul periodico Rinascita. Il timore che ci potesse essere un rigurgito reazionario era molto forte. Ad aggravare l'instabilità del quadro politico italiano si aggiunge la crisi economica. Noi stiamo parlando di un'Italia colpita da una crisi economica grave. L'inflazione è arrivata al 22%. Per evitare il peggio, prosegue Berlinguer, occorre una collaborazione tra le grandi correnti popolare, comunista, socialista e cattolica, ovvero un nuovo grande compromesso storico tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano. Non per stare uniti per sempre, al contrario, per creare la situazione della normalizzazione, in cui se vincevano i comunisti non era i cosacchi che si abberavano in piazza San Pietro, e se vincevano i democristiani non era la vittoria del fascismo. Una strategia di ampio respiro, non il semplice accordo fra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Questo è il compromesso storico, la sfida lanciata da Berlinguer al paese per uscire da una crisi profonda. Allo stesso tempo Berlinguer avvia una revisione della politica estera del partito, a cominciare dalla posizione dei comunisti sulla NATO. Come ricordano il responsabile della politica estera del partito Sergio Segre e lo storico Silvio Pons. Giampaolo Pansa del Corriere della Sera. Onorevole Berlinguer, la mia domanda è questa. È vero che voi contate anche sulla NATO per restare autonomi da Mosca? È vero che vi sentite più sicuri in questa parte del mondo? Beh, noi pensiamo che per costruire il socialismo che noi vogliamo, il socialismo nella libertà, sia più conveniente stare in quest'area. Finalmente ci liberiamo da sta cappa di questo antinato che ci pone al di fuori della realtà. Non era la semplice accettazione della NATO come passaggio obbligato per legittimare il PC come forza di governo, ma era il riconoscimento del fatto che il sistema occidentale aveva in sé dei margini di tolleranza e di pluralismo, di democrazia che non esistevano assolutamente sotto il patto di Varsavia. Madrid, 3 marzo 1977. Conferenza stampa dei segretari dei partiti comunisti di Spagna, Francia e Italia. È la consacrazione dell'eurocomunismo. Quello che si chiama eurocomunismo. Lo che si chiama eurocomunismo? È un'elaborazione che noi abbiamo compiuto, ciascuno nella propria autonomia, guardando anzitutto agli interessi e alle aspirazioni della classe operaia e dei lavoratori dei nostri paesi e guardando al tempo stesso a quei tratti che sono comuni nei paesi capitalistici sviluppati dell'Europa occidentale. L'eurocomunismo resta la premessa di una vocazione europeista che Berlinguer non smetterà mai di coltivare. E se la scelta europeista darà i suoi frutti solo in futuro, a metà degli anni 70, Enrico Berlinguer è diventato un leader carismatico. Impone la propria visione, detta l'agenda politica e porta il Partito Comunista verso traguardi fino a quel momento inimmaginabili. Le elezioni amministrative fanno segnare al Partito Comunista Italiano un successo senza precedenti. Berlinguer ormai un leader straordinariamente popolare. Così il ricordo dell'amico e autista Alberto Menichelli e poi Alfredo Rackin, compagno di partito. In qualsiasi posto uno si andava, non so, creava un entusiasmo, un affetto proprio tutto particolare. Berlinguer, suo malgrado, si proietta al di là del partito. Diventa un leader di massa. 20 giugno 1976, al termine di una campagna elettorale combattuta e serrata, l'attesa per il risultato delle politiche si fa spasmodica. Il PC tocca quota 34,4%, è il suo massimo storico. Ma per lei cos'è il potere? Il potere è uno strumento insufficiente ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni. Ecco, ma a lei cosa piace invece di più del potere? Piace la possibilità di far avanzare la realizzazione di questi ideali. E di meno? La cosa che le dà più fastidio? E di meno, parlando non soltanto a titolo personale, ma parlando come segretario del Partito Comunista, mi dispiace che il nostro potere sia ancora insufficiente per la realizzazione dei nostri obiettivi. Berlinguer ha portato il PC al suo massimo storico con oltre 12 milioni di voti. La Democrazia Cristiana è ancora il primo partito italiano, ma adesso è per la prima volta è insidiata da un'opposizione, quella comunista, che preme per entrare nel governo. Si apre ufficialmente la questione comunista. Nel giugno del 76 a Dorado Beach in Porto Rico, al vertice tra i paesi più industrializzati del mondo, si discute il caso Italia. La crescita del PC preoccupa il segretario di Stato americano Henry Kissinger. Questa preoccupazione in una certa misura accomunava in quel momento Kissinger ai sovietici, perché anche i sovietici avevano la stessa preoccupazione che il PC diventasse una mina vagante, incontrollabile, rispetto al disegno di una distensione conservatrice. A preoccupare davvero Berlinguer invece è lo stallo politico seguito alle elezioni del 20 giugno. 10 agosto 1976. la via d'uscita dall'impasse è un governo di solidarietà nazionale presieduto da Andreotti e sorretto dall'astensione decisiva del Partito Comunista. Onorevole, io credo che ci sia oggi nel paese una parte consistente del vostro elettorato che vi giudica troppo arrendevoli nei confronti della Democrazia Cristiana. Diventate un partito d'ordine, un partito di fiancheggiamento del governo. Io non credo che si possa parlare di arrendevolezza del Partito Comunista. Noi siamo critici e lo siamo ogni giorno. Siamo anche un partito responsabile. 8 luglio 1977, il PC sottoscrive un accordo programmatico con la Democrazia Cristiana. Per i comunisti è un altro passo verso il governo del paese, dietro quella firma la regia abile e discreta di Berlinguer e Moro. Ma l'incontro tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana si interrompe il 16 marzo del 78. Il giorno in cui giura il governo Andreotti, ma soprattutto il giorno del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Da subito Democrazia Cristiana e Partito Comunista rifiutano ogni trattativa. Poi però, il 16 aprile, un mese esatto dopo l'agguato di Fiafani e il sequestro di Moro, il PSI di Bettino Craxi rompe la linea della fermezza e spacca l'opinione pubblica. Per Enrico Berlinguer è il momento più difficile. 29 aprile 1978, Tullio Ancora riceve una lettera di Moro dalla prigione del popolo. La lettera diceva: caro Tullio, dopo la lunga marcia ricevo dai comunisti la condanna a morte. Posso anche capire, tra parentesi c'era, male però, chiusa la parentesi, la loro posizione dura e intransigente. Ma la lascino lì come un punto di riferimento. Vai e non ne facciano questione di quadro politico, che ora dovrebbe essere ridisegnato. Moro in sostanza chiede ai comunisti di non vincolare anche la DC alla loro fermezza. Ancora decide di leggere la lettera al segretario comunista. Ascoltando le parole di Moro, Berlinguer è scosso, ma non torna sui suoi passi. La morte di Moro, l'interlocutore più valido e intelligente di Berlinguer, segna un punto di non ritorno. Pochi mesi dopo il PC torna all'opposizione e alle elezioni politiche del 79 perde oltre 1,5 milioni di voti. Berlinguer, insomma, deve incassare una serie di sconfitte. Poi il 23 novembre dell'80 la terra trema in Irpinia e in Basilicata. Di fronte all'assenza dello Stato e il ritardo dei soccorsi, Berlinguer denuncia la questione morale. Sentiamo le sue parole in un'intervista a Eugenio Scalfari, poi ancora il commento di Alfredo Reichlin. Noi pensiamo che la questione morale, come noi la chiamiamo, è una questione fondamentale perché i partiti diano prova di sapersi rinnovare effettivamente in quello che oggi, secondo me, costituisce il punto centrale del rinnovamento dei partiti. Mettere fine, cioè, alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali. Non è che lui inventava chissà che cosa, ma uno che oggi rilegge quell'intervista dice, ha l'impressione che sia stata scritta ieri, non qualche anno fa. La questione morale fa discutere anche nel Partito Comunista. In agosto è Giorgio Napolitano ad uscire allo scoperto. Nell'insistenza di Berlinguer sulla diversità comunista, Napolitano avverte un rischio di isolamento. C'erano due visioni politiche, cioè Napolitano pensava che noi dovessimo, come dire, mettere la nostra barca verso un incontro con il Partito Socialista. Quindi capiva e leggeva l'intervista di Berlinguer come un ostacolo enorme, perché sembrava rivolta contro Craxi e i suoi. Quindi il problema era anche politico, non era morale. Nei primi anni Ottanta la questione dei rapporti con il Partito Socialista dunque diventa centrale. Craxi ha fatto del PSI un partito intenzionato a contendere al PC lo spazio di manovra sinistra. Ma tra i due leader a quel punto sembra ancora esserci un margine di dialogo. Nel ricordo di Alfredo Reichlin, il racconto di un incontro riservato tra Craxi e Berlinguer alle Frattocchie, la vecchia scuola del Partito Comunista. Berlinguer insisteva perché Craxi si pronunciasse per l'alleanza organica, strategica con la sinistra. Craxi non è che dicesse la sinistra mi fa schifo, tutt'altro, però diceva guardate siamo prudenti, adesso ci conviene che io, cioè il mio partito, collabori con la Democrazia Cristiana. Una tappa intermedia potrebbe essere per esempio anche quella che il Partito Comunista e il Partito Socialista restino entrambi per un certo periodo, per il periodo necessario, all'opposizione, per rendere poi più possibile la lotta per l'alternativa. Qui a Mixer Berlinguer ha proposto al Partito Socialista di stare insieme anche all'opposizione, se fosse necessario per costruire l'alternativa. Lei cosa risponde? Ma innanzitutto dell'alternativa di cui parla Berlinguer io penso che non ci siano nel nostro paese le condizioni. In ogni caso io non mi sentirei di impegnare il mio partito in un'alternativa della sconfitta. Finito di mangiare decideremmo di prenderci una mezz'ora di pausa e lì c'era un giardino, Craxi mi prese sotto braccio e mi disse: guarda Alfredo, Enrico è una brava persona, c'ha molte ragioni, però ciò che Enrico non capisce, diceva Craxi, è la novità che io vedo da Milano, diceva lui, i nuovi ceti che vengono avanti, il fatto che la sinistra deve cambiare linguaggio. Era ovviamente giustificatorio del suo rifiuto di alleanza a sinistra, ma io ebbi chiara la sensazione che lui aveva una visione. In autunno, dopo che Craxi è diventato presidente del Consiglio, sono le misure antinflazione del governo a mettere Craxi e Berlinguer uno contro l'altro. Nei mesi successivi il segretario comunista si divide tra la campagna sulla scala mobile e la battaglia elettorale per le europee. Il 7 giugno, ennesima tappa di un tour de force di comizi, Berlinguer arriva a Padova stanco ma di buon umore. Era il momento che dovevamo andare al comizio e lui non scendeva. Difatti io salgo su in camera, ma Berlinguer non c'era. Riscendo tutto di corsa, tutto trafelato, guarda che Berlinguer non c'è. Mentre si discuteva non c'è, si è apparso lui che veniva da fuori, tutto sorridente e col dito sotto il viso mi ha detto: vedi che pure stavolta t'ho buggerato. Hai fatto bene, perché per lui a uscire da solo, per lui era una cosa, il pure sultra. Buon pomeriggio, sono molto gravi le condizioni del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, colpito da emorragia cerebrale ieri sera a Padova. L'onorevole Enrico Berlinguer è mancato di vivere alle 12.45. La mattina che se spostavamo da Padova, andavamo a Mestre a prendere l'aereo presidenziale, una giornata brutta, pioveva, piovicciava. Siamo partiti da Padova e sulla prima macchina hanno fatto come ci stavo io, Letizia e Giovanni, dietro subito dopo il feretro. E da Padova a Mestre, io di preciso non so quanti chilometri sono, però ai lati della strada c'è stata, è difficile dirlo, c'è stato un mare di gente. A vedere questa gente, tutti bagnati, fradici, però fermi, immobili lì per salutarlo. Questo era Berlinguer. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.